ne verranno fino alle 22 e poi dalle 23 all'una, a cominciare da Lilia Profeti. Buonasera, buonasera, benvenuta, giornalista culturale, collabora con il Riformista, con il giornale Lefte, con il Piano Terra, specializzato in filosofia moderna e contemporanea, e in particolare questa sera presenta il suo libro L'identità umana, per i tipi di L'asino d'oro e insomma poco dopo ne parleremo, sì, sottotitolo dietro copertina Nati uguali per diventare diversi, proprio così. Parleremo di questo, e volevo anche salutare Davide Tretti, cantautore. E non ne facciamo una tragedia, diciamo. Sì, è vero, faccio il cantautore, ma non ne facciamo una tragedia. Cioè, questa vaga italiana. È meglio volare basso. Solo se Gabriele almeno. Buonasera. Buonasera, Davide Tretti, questa comunità, hai una chitarra, suoni anche canzoni, diciamo, dei cantautori italiani, questa comunità di dove sei? Si chiama ancora Festa Unità? Si chiama Festa Unità, anzi quest'anno doppiamente, perché parla anche del 150 anni di Italia. E io da 56, che non vengo a Festa Unità, quindi ecco. Si chiama proprio ancora ufficiale, ufficiale. Allora, perfetto, sì. Filologicamente come hai capito, siamo assolutamente in tema. Con Davide torneremo fra poco, io volevo parlare con Lidia Profeti, appunto, anche perché fra pochissimo salirà sul palco di Spazio Rinascita per presentare questo libro di identità umana, che appunto vede, scrive il concetto di identità umana in, secondo tante sfaccettature, a partire da tempi lontanissimi, sì. 30.000 anni fa. Sì, perché diciamo che il concetto di identità umana, come soprattutto razionale e religiosa, si è affermata con la filosofia greca, fatta nel 90 Cristo all'incirca, e da allora pressoché è rimasto uguale, perché comunemente noi pensiamo che gli esseri umani sono tali perché hanno l'anima oppure perché hanno la ragione, anche per passare. E così. Allora io mi sono domandata come mai eravamo arrivati a quel concetto che da allora è rimasto identico. Quindi ho ripercorso queste tappe a partire dal Paleolitico, poi in Mesopotamia, poi in Grecia, così ipotizzando che quella definizione, che secondo me sarebbe ora di allargare, abbandonare, diciamo trasformare, superare, come si è potuta formare, per verificare che non è detto che gli esseri umani l'abbiano sempre pensata così, e che in 2500 di anni di storia che sono la nostra civiltà non sono la storia di tutta l'umanità. Quindi nel libro appunto vengono divisi l'identità religiosa dall'identità razionale, come se fossero quasi tesi e antitesi, per arrivare a un'ipotetica sintesi. Ma diciamo che è un discorso un po' storico, nel senso che il nucleo dell'identità religiosa, per come ha ricostruito, si è creato nella città di Mesopotamia, quella razionale più specificamente in Grecia. E poi c'è stato il grande passaggio, diciamo, alla scrittura, alla concettualizzazione, che ha sancito questa identità, che un pochino sì, effettivamente rappresenta una sintesi. Sì, allora, il metodo seguito, che forse può essere insomma, un particolare, che questo libro, in questa ricostruzione ardita, che non pretende di dire la verità, ma propone una ricerca, forse questo metodo inevitabile, soprattutto quello di considerare anche il pensiero degli esseri umani da un punto di vista irrazionale in corso, quindi la storia del pensiero che si è creata anche da quel punto di vista. Tant'è che comincia dal Paleolitico e dalle pitture rupestri, che rappresentano a mio parere il primo metodo di riflessione degli esseri umani su se stessi. Quindi si vedono appunto immagini. L'ultimo capitolo appunto è un tentativo di ipotesi, di nuova visione, una proposta, cioè una nuova visione dell'identità umana, anche perché evidentemente la prassi, proprio mi piacerebbe anche parlare di come si vive quotidianamente oggi l'identità umana, forse racconta qualche problema, qualche errore, insomma. Sì, mi sembra che centrale il punto, perché questo libro non vuole essere qualcosa di udito vuole essere un contributo a suo modo politico, perché sente fortissimamente l'esigenza del malessere di portarci in giro. Forse siamo arrivati a un capolinea, dobbiamo trovare il coraggio di farci nuove domande e di vedere come possiamo migliorare la nostra esistenza. L'identità politica, per esempio, quello è un tema solamente presente in queste sere, così come è presente il tema delle minoranze, l'appartenenza, dell'identità, no? L'omosessualità, per esempio, l'immigrazione. Questo mondo, no? La festa dell'unità è il mondo che stiamo vivendo in questi giorni, ha un'identità politica forte, secondo lei, innanzitutto, o poi un'identità politica aperta o chiusa, diciamo, al diverso? Dunque, sull'identità politica forte avrei dei seri dubbi, però mi sembra che questa caratteristica di laboratorio, di apertura, di confronto sia un fantastico segno, insomma, di novità e di possibilità di ricostruire un'identità politica forte, perché indubbiamente è traballata negli ultimi decenni. Però questa festa dell'unità, che mi sembra così particolarmente aperta, sentivo anche il cantautore ritornare qui dopo tantissimo tempo, è tornato Massimo Fagioli dopo 30 anni, è tornato l'altra sera Gianni Minato, cioè, questo ritorno io non lo vedo come qualcosa di ripetizione, ma proprio come una necessità di riflettere sui passi per andare verso il nuovo, quindi estremamente positivo. Tra l'altro l'aria che si respira a questa festa mi sembra fantastica e denota che la gente ha bisogno di questo confronto. Parlavamo prima, mi fanno spenti, io anche per curiosità ti propongo una domanda che voglio finire qualche minuto fa. Identità politica, il segno appunto nati uguali per diventare diversi. La paura del diverso è un altro dei temi ovviamente centrali del nostro tempo, oltre che di questi luoghi. Appunto dicevamo, questi luoghi sono dei luoghi aperti, luoghi aperti ovviamente alle minoranze, alla diversa però identità politica sono ugualmente aperti, cioè a per esempio persone di altra parte politica, di altro pensiero. E questo è un discorso un po' complesso, perché io credo appunto che ci sia bisogno di ripensare il concetto di diversità, ripensarlo alla base della rifondazione di un concetto di uguaglianza, perché non si può partire da un essere originariamente diverso, perché se si è originariamente diversi non ci saranno mai uguali. E lo scontro violento sarebbe praticamente, come dire, insopprimibile. Noi dobbiamo rifondare il concetto di uguaglianza, che appunto fa parte della proposta di una nuova identità umana, che riconsideri il primo anno di vita e i nostri sogni come facente parte fondamentale della nostra realtà umana. Per cui, in base a questo concetto, noi nasciamo tutti assolutamente uguali, compresi tra uomini e donne, perché per il pensiero senza coscienza del primo anno di vita non ha nessuna importanza, la differenza sessuale non ha nessuna, per il neonato che non vede, cioè non ha nessuna importanza, ma il neonato pensa, c'è cioè una sua identità. In questo senso siamo tutti uguali, neri, bianchi, gialli, uomini, donne, omosessuali, eterosessuali, e chiunque poi in età adulta faccia le proprie scelte. Diventiamo diversi nel tempo, ma senza mai perdere questa caratteristica di uguaglianza. Diciamo che la condizione umana, come dire, frantuma il principio di una contraddizione di Aristotele, perché per la realtà umana non va bene. Gli esseri umani sono insieme uguali e diversi. Quindi, fatta questa premessa, il fatto che secondo me dovremmo ripensare l'identità politica a partire da questo, perché non c'è mai stato questo pensiero sull'uomo. La sinistra e la destra, grosso modo, si sono storicamente differenziate. La prima puntando sostanzialmente sull'uguaglianza, poi in anni più recenti sulla libertà, ma senza mai riuscire a coniugare questi due elementi. La destra si è sempre distinta per un pensiero più conservatore e più tradizionale. Ora, secondo me sarebbe il caso di confrontarci non tanto su queste appartenenze, come dicevamo prima, ma se partiamo da un nuovo umanesimo di cui c'è assolutamente bisogno, ma storicamente c'è bisogno, perché l'identità umana razionale è andata in crisi all'inizio del nostro 1800. Se ci confrontiamo su questo, ci si può aprire a pensieri anche diversi, perché magari poi scopriamo, fermo restando, che comunque da un punto di vista del che è l'idea sull'uomo che è diversa, secondo me. E questa però può, se ripartiamo dall'idea dell'uomo, ci si può confrontare anche con idee, contrasti di appartenenza diverse e si potrebbe anche avere qualche cosa in comune. Un'identità irrazionale, quella sì, che propone appunto sì, questo libro di Emilia Profeti, come la dobbiamo immaginare? Perché appunto quando parliamo di irrazionalità c'è anche del pericolo, no? A volte, no? Diciamo, dove può arrivare l'irrazionalità? Può arrivare quasi un punto, quindi in cosa può, diciamo, invece tranquillizzarci e dire questo è il futuro giusto, diciamo, allora, irrazionale. Innanzitutto dobbiamo scoprire che l'irrazionale non è quello che ha definito Freud, che non ha di fondo fatto nient'altro che prendere una serie di cose, di tormenti che c'erano in giro per affermare che il bambino nasce polimorfo e perverso, nasce violento, che va permanentemente controllato. Quindi se l'irrazionale è quello, effettivamente c'è tutto da stare un po' preoccupati. Il problema è che l'irrazionale non è assolutamente quello, l'irrazionale è l'identità del bambino che pensa per immagini. Il pensiero, il nostro pensiero nasce come creativo, quindi prima considerazione da fare è che la positività dell'irrazionale è la creatività. Gli esseri umani sono tali perché sono creativi e non ripetono sempre su stessi. Dopodiché possiamo scoprire che se il bambino che non ha solo bisogni materiali ma esigenze profondamente umane di conoscenza dell'altro sconosciuto viene, diciamo, gratificato, soddisfatto, gli viene riconosciuta questa identità umana dall'inizio e non viene considerato come un pacco semplicemente da ingozzare oppure da coprire, e il suo inconscio crescerà e si svilupperà sanamente, perché non nasciamo originariamente portati verso l'altro, originariamente sociali. I guai cominciano con le delusioni, ma questo è tutto un altro discorso. Se si pensa che l'irrazionale è quello, che poi si trasforma questo primo anno di vita tutte le notti nei sogni, che questi sogni sono così importanti per capire noi stessi e gli altri, non c'è da avere paura. Quando ci sono i guai si affrontano. Benissimo, allora grazie mille a Livio Profeti, L'identità umana, libro edito da L'Asino d'Oro, che tra pochissimo sarà presentato nello spazio Rinascita, proprio qua a pochi metri da dove siamo noi. Grazie mille di essere stato qui. Grazie a voi. E allora noi, prima di tornare qui con Bande 3 e con